Ci sono strumenti in cui il suono viene prodotto dalla vibrazione di corde. Noi andiamo in giro per il mondo in cerca dei nostri sogni e dei nostri ideali. Spesso releghiamo in luoghi inaccessibili ciò che si trova a portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano. Arrivederci.